L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, questa è l'Altra Europa in diretta su Radio 24, il nostro appuntamento settimanale per raccontare l'Europa delle possibilità e delle opportunità in questa giornata dove l'Europa è profondamente ferita in queste giornate, la tragedia drammatica di Nizza, il tentativo di colpo di Stato di questa notte in una zona ai confini con l'Europa, un'Europa instabile, un'Europa che ha bisogno di tutte le sue facce, un'Europa che ha bisogno di democrazia. Stiamo ascoltando, grazie ai GR di Radio 24, grazie all'intenso lavoro dei colleghi, tutti gli aggiornamenti dalla Turchia. Noi in questa puntata torneremo su Nizza perché pensiamo sia importante ragionare, andare anche al di là della cronaca. Vi ricordo le coordinate per seguirci anche virtualmente, euronetplus.eu, il portale di Euronet Plus, il network al quale apparteniamo, oppure radio24.it, il nostro sito, chiocciola Federico Taddia, chiocciola Euronet Plus R24, invece le coordinate per trovarci sui social network, Twitter e Facebook. Partiamo da Nizza e lo facciamo insieme a una testimone oculare ed emotiva di quei fatti, un po' di musica e poi incontriamo Giusy Marchetta. There's a blood red circle on the cold dark ground, and the rain is falling down. The church door's thrown open, I can hear the organ song, and the congregation's gone. My city of ruins, my city of ruins. Now the sweet bells of mercy drip through the evening trees, young men on the corner like scattered streets. While my brother's down on his knees, my city of ruin. Abbiamo scelto comunque di partire con la musica perché in questo momento è importante dare voce a tutte le grammatiche, a tutti i canali, a tutte le emozioni, e ho voluto aprire la puntata proprio con una scrittrice, col punto di vista di una scrittrice che in quelle ore era a Nizza, è stata una delle prime anche a portare la propria testimonianza di quello che stava vedendo e di quello che stava vivendo. Giusy Marchetta, scrittrice e insegnante. Ciao Giusy, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno, salve. Grazie per aver accettato il nostro invito. So che sono state ore non facili. Abbiamo letto, abbiamo visto le drammatiche immagini di quei minuti, di quelle ore del post strage. Volevo capire da te il dopo, il qui ed ora, sì. Questo momento, cosa si vive, quelle che sono le reazioni, quelle che sono le sensazioni. Sì, diciamo, ieri è stata una giornata particolare perché continuavi a sentire le sirene in continuazione in tutta la città, sia quelle della polizia, sia quelle ancora delle ambulanze, che evidentemente trasportavano i feriti da una parte all'altra. So che si chiedeva del sangue ai cittadini di Nizza, quindi c'erano delle file fuori dagli ospedali per donare questo sangue. E oggi sicuramente la situazione è diversa perché hanno riaperto le spiagge, mentre invece ieri erano chiuse e anzi erano pattugliate continuamente, quindi non era permesso di accedere né alla promenade né alle spiagge, quindi la sensazione era un po' irreale. Mm-hmm. Perché chi conosce Nizza sa che comunque quella è una parte molto avviva della città, nel senso che anche in pochi giorni noi siamo stati qui e la promenade è veramente il posto dove ci si raccoglie, ci corre, ci sono i bambini che giocano, quindi è proprio il posto più popolato forse della città, e quindi vederla vuota in questi giorni era molto strano, certo. Cioè, ieri è stato molto strano. Oggi sicuramente è un po' diverso, cioè vedere la gente di nuovo, l'unica cosa che ho notato di differente è la presenza fuori dagli ospedali di gruppi di persone che evidentemente aspettano notizie, insomma, ci sono sia giornalisti ma anche persone comuni aspettano di sapere come stanno dei cari, probabilmente. Assolutamente. E, voglia di ripartire, questa apertura delle spiagge come è stata accolta? Ci sono comunque persone che vanno, c'è voglia di avere subito una normale quotidianità? Io credo di sì, anche perché in un certo senso l'estate è veramente, molte persone erano qui probabilmente per vacanza, quindi ci sono diversi stranieri in città. Io credo che ci sia stata una percezione un po' diversa, sia da parte di chi ha vissuto in prima persona il fatto e chi invece non era presente, quindi era a Nizza ma non ha vissuto proprio quei momenti, quindi forse per queste persone è più facile andare avanti e andare al mare stamattina. Certo. Giusy, la scrittrice, cosa ha visto in queste ore? Allora, io penso che in realtà il mio primo istinto la notte quando siamo tornati poi era di buttare giù e di scrivere sinceramente quello che avevo passato, però in realtà ho deciso di aspettare perché è stato tutto molto complesso, nel senso che io ho sentito tantissime cose, tantissime anche storie, anche di persone che erano scampate per poco, realmente sono state meno fortunate di me. E anche di come ha reagito la città, la parte della città che anche di molti musulmani che erano qui, famiglie musulmane che hanno accolto le persone che stavano scappando, pur sapendo che dal giorno dopo sarebbe stato difficile, ecco. Certo. Quindi diciamo che emotivamente è veramente una situazione molto, molto complessa. Noi stiamo facendo un seminario all'Università di Cinematografia, anzi adesso noi stiamo girando il cortometraggio che dobbiamo girare con i ragazzi. Sì. E perché abbiamo deciso di continuare, di andare avanti, i ragazzi stessi dell'università hanno deciso di restare e di girarlo e ti devo dire però che la sensazione stranissima era sentire questi ragazzi raccontare l'esperienza dell'altra notte con le sirene in sottofondo, ecco che sentivamo da fuori l'università che giravano per la strada. Alta infedeltà.tumblr.com, questo è l'indirizzo del tuo blog. Grazie Giusy per la tua testimonianza. Buon lavoro a te e a tutti i ragazzi con i quali Grazie, buona state giornata. operando. Ciao, grazie ancora. Noi adesso ci fermiamo. Un euro post-it, il traffico, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Stage al Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa. A tutti gli aspiranti avvocati, il Consiglio degli Ordini Forensi d'Europa promuove uno stage della durata di 6 mesi presso la sua sede di Legal Policy a Bruxelles. Il candidato dovrà avere una buona conoscenza dell'inglese e del francese, oltre a una formazione in campo legale e una buona conoscenza della legislazione europea e delle istituzioni dell'Unione Europea. Dovrà infine avere ottime capacità di comunicazione scritta e orale. Lo stage prevede un rimborso spese di 750 euro al mese. Il curriculum in formato Europass e la lettera di presentazione dovranno essere inviati via mail all'indirizzo jamart@ccbe.eu entro il 22 luglio. Per informazioni visitate la sezione Jobs del sito ccbe.eu. L'altra Europa. Mystery to me, we have agreed with which we have agreed, and you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. Cosa spinge un giovane nato e cresciuto a Parigi a farsi esplodere nel cuore della sua città e della gente di cui fa parte? Che cosa spinge un uomo a seminare il terrore nei luoghi della democrazia e della socialità? Sono alcune delle domande a cui si è tentato di dare una risposta con un recente libro intitolato Attacco alla generazione Bataclan. Perché? Intervista 8 psicoanalisti francesi, un libro ovviamente di estrema attualità, un libro che ci può aiutare anche a leggere i fatti di Nizza, un libro curato dalla psicanalista Alessandra Guerra, a cui diamo il benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno Guerra. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, avete fatto una serie di interviste, di incontri, di riflessioni con 8 psicanalisti, se non erro, francesi, per cercare di dare risposta a domande non facili, quindi immagino che anche le risposte siano complicate. C'è però un quadro, c'è un qualcosa che può aiutarci ad avere un orientamento? Ma sì, l'orientamento, un orientamento sicuramente. Posso dire che gli 8 psicanalisti intervistati sono tutti di Parigi, quindi il libro si riferiva appunto all'attacco al Bataclan. Sì. Quindi insomma loro la situazione ovviamente di Parigi la conoscevano bene. Ora la questione è questa: praticamente tutti gli intervistati hanno insistito sul fatto che chiaramente questo è un libro un po' forse controcorrente, non lo so, comunque hanno insistito sul fatto che da una parte sicuramente nel quartiere, nella zona nord di Parigi ci sono delle situazioni sociali estremamente degradate nelle banlieue. Sì. Cioè, ci sono interi quartieri che sono in mano ai trafficanti di droga e di armi e in mano alla prostituzione, e quindi questo sicuramente per i giovani non è un orizzonte ideale, non apre sicuramente delle prospettive. Quindi tra l'altro questa situazione, peraltro degradata da molto tempo, è diventata ancora più degradata perché già Sarkozy decise di togliere i poliziotti dalle banlieue proprio. Il commissariato di prossimità doveva essere tolto perché i poliziotti non dovevano giocare a calcio con gli abitanti, e sono stati per di più tolti anche 12.000 poliziotti. Quindi insomma la situazione era come avere, tra virgolette, allora vicino a Parigi una situazione assolutamente problematica. Inoltre, oltre ad avere tolto il commissariato di prossimità, i poliziotti sono stati tolti anche, tra virgolette, tutti gli aiuti che potevano dare le associazioni, diciamo, parascolastiche, cioè sì, tutte quelle associazioni di volontariato che erano tantissime e che davano una mano anche a tenere coeso un tessuto sociale. Coeso è una parola grande, il tessuto sociale è già molto compromesso e complicato, per cui è come avere lasciato intere zone di Parigi in mano, diciamo, tra virgolette, alla delinquenza, e questo è quello che dice lo psicanalista Robert Levy. Ovviamente questo ha comportato anche questo abbandono di fatto da parte di una parte dello Stato, e ha comportato anche il fatto che sia arrivata la propaganda, quindi la propaganda jihadista in un qualche modo è intervenuta all'interno di un vuoto, cioè di un vuoto tra virgolette delle istituzioni, anche di un'altra voce. Sì. E questa propaganda, e la domanda vera è perché ha fatto tanta presa questa propaganda su tanti giovani, ecco, su tanti giovani, perché attualmente sembra che siano quasi 2.000 i giovani che sono partiti insomma per andare in Siria o comunque per combattere in Daesh. Allora, qui è ovviamente interviene proprio il lavoro dello psicanalista, e gli psicanalisti mi hanno dato differenti risposte. Devo dire che il libro è interessante perché ogni psicanalista comunque dà le sue motivazioni, e messe una assieme all'altra contribuiscono a non dare una risposta sola, ma ovviamente ad avere un quadro. Dunque, innanzitutto la prima questione che proprio mi hanno detto è che chiaramente e qui c'è una questione che a mio parere deve preoccupare anche l'Italia, comunque dice, i giovani praticamente, soprattutto i giovani arabi, in modo particolare i giovani musulmani, comunque hanno grandissime difficoltà a trovare lavoro, quindi c'è una situazione anche tra virgolette di esclusione sociale dal punto di vista del lavoro, anche se questo ovviamente non basta a spiegare tutto ciò, però noi dobbiamo considerare la disoccupazione giovanile comunque un fenomeno che può dare origine ad altri fenomeni, è comunque preoccupante. Sì. perché riguarda poi di fatto un'esclusione sociale. Poi invece Charles Mermann sottolinea il fatto che molte famiglie che poi vivono appunto in queste situazioni di degrado comunque sono famiglie nelle quali o c'è della violenza o comunque lo stesso padre, la stessa famiglia vive in una situazione di degrado, quindi oggettivamente per un giovane insomma non è facilissimo vivere in una situazione del genere. Quindi la risposta, e questo lo dice lo psicanalista Robert Levy, lui dice, e questo secondo me, a me devo dire, convince molto, cioè a partire da una situazione di degrado e di difficoltà a vari livelli, come abbiamo anche detto prima, cioè praticamente uno potrebbe dire, dopo la mia morte conosceranno finalmente il mio nome, sarò un eroe. Cioè quello che sottolinea Robert Levy è che in fondo in questa situazione il discorso della propaganda jihadista propone appunto un'identificazione eroica. Mm-hmm. E insomma, lasciare un segno, lasciare memoria di se stessi attraverso questa tragedia. Guerra, la ringrazio per averci dato un assaggio di questa che è una lettura assolutamente da fare, perché come ha detto lei sono tanti punti di vista paralleli ma nello stesso tempo intrecciati, quindi per avere veramente tutte le posizioni, bisogna avere tutte le posizioni per avere un quadro che sia complessivo. Ricordiamo il titolo, Attacco alla generazione Bataclan, perché intervista 8 psicanalisti francesi per le edizioni ETS, curato per l'appunto da Alessandra Guerra. Grazie davvero per essere stata con noi, buona giornata. No, grazie a lei, grazie, buona giornata anche a lei, grazie, buongiorno. E noi continuiamo a riflettere su quello che è successo a Nizza, ma soprattutto sui ragionamenti, il dopo, sulle riflessioni da fare. E mi sono posto una domanda, questo è il momento della parola o è il momento del silenzio? Qual è anche l'approccio? Certo, il giornalista deve raccontare, il giornalista deve informare. E poi però come fermarsi un attimo per capire? E, per questo ho invitato Enzo Bianchi, che è monaco laico e priore del monastero di Bose, persona che sa conservare la parola, persona che sa conservare il silenzio. Buongiorno Bianchi, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno a tutti. Notizie tragiche in questi giorni, in queste ore. È il momento della parola o è il momento del silenzio? Ma è il momento di un silenzio eloquente, nel senso che dobbiamo riflettere e prendere davvero consapevolezza della fragilità in cui stanno le nostre società, vedere anche la nostra parte di responsabilità e poi assumere una vera e propria resistenza nei confronti delle ideologie fanatiche, del terrorismo che è presente in Medio Oriente e che certamente ispira molti comportamenti da parte di gente della nostra società, soprattutto degli immigrati. Ma ci vuole anche il silenzio, perché noi dovremmo anche chiederci se il continuare a ripetere questi messaggi violenti non finisca per aumentare l'emulazione da parte di persone fragilissime. Nel nostro caso noi vediamo che non si può dire che è assolutamente un'ideologia religiosa. Certamente ha ispirato l'azione di questo povero folle, disperato, l'ha ispirata con probabilità l'ISIS con i suoi proclami. Però in realtà vediamo chiaramente che non è un terrorismo organizzato, ma che chiunque in qualche misura nella disperazione o nella follia riesce a fare devastazione, terrore e a uccidere molte persone. Questo ci deve dire la nostra fragilità. E poi la domanda, perché soprattutto avviene in Francia e non avviene invece in altre nazioni? Questo è anche una domanda seria. Io conosco bene la Francia, la frequento mensilmente da quando sono giovane. Mi sento in parte anche francese, devo dire, per la mia presenza in questa terra e tra questa gente. Però in questi anni io ho visto come si è degradato l'atteggiamento verso gli immigrati. La Francia, che era terra di antica immigrazione, perché algerini, tunisini, marocchini li ha sempre avuti fin da quando io ero giovane e frequentavo soprattutto Parigi, ma devo dire che in questi anni invece ha fatto sì che questi immigrati la sentano non più come la loro terra, perché l'attacco che la Francia ha fatto alla Libia, l'attacco che la Francia ha fatto in Siria, queste cose da noi se ne parla poco, ma io che incontro sovente gente appunto musulmana del Medio Oriente o del Nord Africa, loro si imprimono dentro una specie di rabbia e di odio verso questa terra. E poi la stessa posizione di una laicità che qualche volta sembra loro nemica. Quindi diventa facile focolaio a quel punto di azioni inconsulte e soprattutto attecchisce l'appello dei terroristi che viene dal Medio Oriente. Ma è l'ora della responsabilità, è l'ora del silenzio eloquente, meditato. Chiediamoci in questo clima di odio sempre più grave, sempre direi più torrido, che cosa noi ci stiamo preparando. In fondo, mi permetto di dire, fatte le dovute proporzioni, ma l'uccisione che noi abbiamo avuto in Italia di quell'immigrato a Fermo mostra una stessa logica alla fin fine, perché questo odio predicato, questa paura aumentata verso gli immigrati fa sì che poi tutti si sentano autorizzati o a insultarli o addirittura a picchiarli, come nel caso di Fermo, e un folle a provocare una strage. Questo dovrebbe farci riflettere seriamente. Affinché non sia, insomma, una strada irreversibile. Grazie davvero a Enzo Bianchi, priore del monastero di Bose. Buona giornata, Bianchi. Buongiorno a tutti. Grazie davvero. Noi ci fermiamo e la pubblicità, poi torniamo qua in diretta con l'Altra Europa. L'Altra Europa. If I was young, I'd flee this town. I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns was take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, chiocciola Federico Taddia, chiocciola R24, Aeronet Plus, per trovarci anche su Twitter e Facebook. Andiamo a Cortona, dove giovedì è stata inaugurata la sesta edizione del Festival Internazionale di Fotografia Cortona on the Move. Quest'anno c'è un progetto speciale dedicata all'Europa, abbiamo quindi il piacere di parlarne con il direttore esecutivo del festival. Diamo il benvenuto ad Antonio Carlone. Ciao Antonio. Ciao a tutti, buongiorno, grazie per l'ospitalità. Allora, prima di entrare nello specifico nel progetto europeo, dacci le coordinate del festival, raccontaci che cos'è. Il festival è nato 6 anni fa, questa è l'edizione probabilmente più importante, anche perché è la più lunga sia dal punto di vista delle tempistiche. È iniziata giovedì 14 luglio, finirà il 2 di ottobre. Il festival sarà aperto tutti i giorni con 13 esposizioni. Affronta il macro tema del viaggio, inteso veramente in tutte le sue forme, quindi non è un festival di fotografia di viaggio, ma è un festival di fotografia in viaggio, che è un po' la distinzione che ci permette poi di riuscire a comunicare così bene il festival. Sì. Abbiamo, a parte il progetto speciale Europa, che è probabilmente il progetto più importante a cui abbiamo mai preso parte, abbiamo la mostra di Larry Towell, grande fotografo Magnum, che espone qui a Cortona la sua prima retrospettiva europea. Abbiamo il lavoro completo di Darcy Padiglia, abbiamo The Events di Paolo Woods e Galimberti, abbiamo una prima retrospettiva, anche se lei è molto giovane, della fotoreporter Lindsay Addario, e poi molti altri, insomma. Quindi il festival è pronto ad ospitare chiunque passi da Cortona. CortonaOnTheMove.com è il sito. Parliamo invece di questo progetto speciale che vede l'Europa, che vede l'attualità europea al centro, parlando di migranti e rifugiati. Allora, il progetto speciale Europa è, si chiama Europa, e è effettivamente un sogno, nel senso che l'idea è quella di creare un libro che sia un'introduzione illustrata per migranti al continente europeo. Un libro che sarà all'incirca di 450 pagine, sarà in quattro lingue, inglese, francese, arabo e farsi, e sarà illustrato con le immagini della grande agenzia fotografica Magnum. È un'esperienza unica, perché l'idea è quella di dare ai migranti uno strumento per capire il continente dove stanno cercando di entrare, e allo stesso tempo è uno strumento anche per gli abitanti del continente che si trovano a dover ospitare i migranti, perché poi anche gli stessi europei non sanno chi arriva, hanno sempre paura dell'incognita del diverso, e l'idea è quella di creare uno strumento che sia invece uno strumento di conciliazione e di integrazione. Il tutto è nato da un'idea del fotografo Thomas Borzak dell'agenzia Magnum, il quale, lavorando appunto lavorando nel territorio, quindi nei punti d'accesso all'Europa e parlando con i migranti, si è accorto che i migranti che arrivavano non sapevano che cosa li aspettasse, non sapevano dove stavano andando, non sapevano quali erano le regole culturali che avrebbero trovato. E quindi lui ha parlato prima con un'associazione spagnola che si chiama Liquindoi, gestita da Jessica Murray, e dopodiché Jessica ha contattato noi e siamo diventati un trio di organizzatori di questo progetto. Quindi da una parte c'è la Magnum, guidata da Thomas Vorak, poi c'è Liquindoi, che ha praticamente la gestione del progetto, e poi c'è Cortona on the Move, che fa la parte di raccolta, e non solo, perché una delle mostre del festival si chiama appunto Europa. Questa è curata da Arianna Rinaldo, che sì, è la direttrice artistica del festival, e la mostra è un unicum, nel senso che è un progetto site specific, fatto appunto per l'ospedale per il vecchio ospedale, che è una delle location di Cortona on the Move, dove è come se il libro si aprisse e diventasse una mostra attaccata alle pareti. Antonio, ma questo libro, queste 400 pagine, che vogliono accogliere appunto i migranti con un taglio nuovo, un taglio testuale, un taglio anche fotografico, esiste già? Esiste, siamo in fase di finanziamento. Perfetto. Del progetto, quindi colgo l'occasione anche per dire che siamo disponibili ad incontrare eventuali finanziatori. Abbiamo ad oggi terminato tutta la parte contenutistica, quindi i testi nelle quattro lingue, tutte le immagini, e abbiamo qui a Cortona la versione, il prototipo del primo capitolo. Perfetto. Quindi sono all'incirca 6 mesi che lavoriamo a questo progetto. È stato un processo molto lungo, prima cosa perché è stato molto difficile capire come raggiungere il target. Seconda cosa, è stato molto difficile trovare i contenuti e selezionare i contenuti, perché immaginate di raccontare 14 paesi europei, non soltanto nella loro contemporaneità, ma anche nella loro storia, perché poi è la storia dell'Europa che ha costruito l'Europa di oggi. Quindi il libro cerca veramente di costruire una visione a 360 gradi di quello che è il nostro continente. In bocca al lupo per il festival, in bocca al lupo per il progetto. Ovviamente i microfoni di Radio 24 a disposizione per raccontarlo e per mostrarlo una volta che sarà ultimato. Grazie davvero Antonio, buon lavoro. Crepi il lupo, grazie tante, buon lavoro. Europostit. Europa, le meraviglie ci circondano. Siete esperti di Europa? Avete visitato tutti i paesi dell'Unione e siete ormai sicuri di conoscere le meraviglie che nascondono? La Commissione europea vi mette alla prova con la campagna Europa, le meraviglie ci circondano, nata per invitare gli europei a scoprire i luoghi nascosti del continente. Condividete tutte le vostre destinazioni preferite con l'hashtag MyWonderfulEurope. Un'applicazione di Facebook raccoglierà tutti i luoghi in una mappa delle meraviglie collettiva e piena di sorprese. Le foto delle destinazioni saranno distinte in 4 categorie. Scopri il tuo colore preferito, l'Europa è il tuo regno, non ti sentirai mai solo e bellezza straordinaria. I partecipanti all'iniziativa avranno la possibilità di vincere biglietti ferroviari con cui partire alla scoperta dell'Europa. Cercate su Facebook la pagina Europe Wonder is All Around e cominciate a condividere i vostri luoghi con hashtag MyWonderfulEurope. Arina è una barca a vela che vuole essere una barca della cultura e delle culture. L'Euromediterraneo che diventa uno spazio di luogo, di incontro, di contaminazione, è un progetto che parte da Venezia e cerca di rimettere al centro le vecchie rotte dei marinai. Un progetto complesso, verotour.eu, per conoscerlo nei dettagli attraverso il portale dedicato. Ne parliamo con Pietrangelo Petenò della Marco Polo System, che ha progettato, sviluppato e preso parte a Verotour. Buongiorno Pietrangelo. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, qual è la missione di questa idea antica è assolutamente moderna, e questa credo che sia una delle sue caratteristiche principali. Certo, e purtroppo il nostro pensiero, il nostro animo è a queste due nottate tremende che proprio sono quello che vogliamo combattere, cioè costruire una convivenza pacifica fra i popoli del Mediterraneo, questa Europa mediterranea, e queste due brutte nottate, insomma, ovviamente ci fanno ancora di più credere che bisogna andare in questa direzione, con tante barche a vele, con tanti pensieri, con tanta forza ancora maggiore di quanto ci stiamo mettendo, perché solo in quella maniera, in questo modo, possiamo davvero dare un segno diverso a questo nostro nuovo mondo, insomma, che ci auguriamo possa davvero prendere le leve della cultura in qualche maniera per la convivenza dei popoli, insomma. Certo. Questo è stato un po' il messaggio. Petenò, le chiedo un minuto di pazienza. Sì. Al momento del traffico poi torniamo immediatamente da lei, così andiamo a capire nel cuore che cos'è Verotour. L'altra Europa. Eccoci qua ancora in diretta con Pietrangelo Petenò. Allora, Petenò, che cos'è Verotour? Verotour nasce, diciamo, da un percorso ultradecennale, cioè dall'idea che avevamo di far riscoprire e valorizzare quel patrimonio comune, patrimonio culturale comune che nel Mediterraneo, in qualche maniera da Venezia, vedevamo appunto come ripercorrere lungo le rotte del Mediterraneo orientale, non solo, diciamo, tutti quelli che erano stati i traffici commerciali di Venezia, della sua Repubblica nel Medioevo. Rileggendoli però ovviamente non tanto in una logica né di dominanza e neanche di voler trasmettere chissà quali culture superiori, ma anzi proprio di connettere quelle culture, cioè di conoscere le tradizioni e ciò che era rimasto di eredità culturale, che questo è stata davvero una spinta importante e ci ha fatto capire, neanche immaginavamo all'inizio, che è molto viva nelle comunità locali, tantissimi patrimonio culturale che sopravvive, eredità, tradizioni, usi, costumi, che fanno sì che quei traffici commerciali, quella capacità di relazioni che chi commercia mette, diciamo, come motore della propria attività, poi lasciano davvero una sedimentazione culturale importante, fatta di patrimonio, di fortificazioni, di strutture militari nei porti, ma fatta anche proprio di poi di usi e costumi, di lingue comuni, certo. di tante usanze, insomma. E con questo viaggio avete voluto e vorrete, perché è un viaggio in più tappe, connettere tutti questi punti? Sì, è un lavoro che stiamo facendo da anni, poi abbiamo avuto la fortuna di pensare di presentare questo progetto alla direzione turismo e industria della Commissione europea, la quale l'ha anche finanziato per 18 mesi, quindi ci ha aiutato fino al 2014 a sedimentare queste nostre esperienze per provare a farlo diventare anche una cosa più stabile. Però quello che più ci interessa, e riprendiamo quest'anno nel 2016 in questa avventura che ormai è già da un mese che la barca sta viaggiando e ancora ne avrà un altro mese, sì. Diciamo vogliamo continuare, perché quello che ci interessa è anche il coinvolgimento dal basso delle comunità. Noi vogliamo sperimentare una bellissima convenzione che il Consiglio d'Europa ha fatto, e la convenzione di Faro, quella proprio dell'eredità culturale, cioè quella che il patrimonio culturale, la cultura deve appartenere alla coscienza delle comunità nei territori, e quindi dal basso costruire proprio questi legami che ovviamente poi devono trovare anche le istituzioni che le sorreggono, le supportino, ma non può essere solo diplomazia o relazioni istituzionali. Noi crediamo molto alla diplomazia culturale, fatta però della cultura che è quella che muove poi le file di tutto quanto il coinvolgimento, quindi le comunità devono diventare patrimonio loro, insomma, quindi riviverlo e ricominciare a riconnetterlo. Quindi la barca vela anche quest'anno è partita da Venezia, poi ha toccato ovviamente vari porti storici, Capodistria in Slovenia, la Puglia in diverse occasioni, è arrivata a Corfù all'inizio di luglio e ieri è arrivata a Lepanto e poi proseguirà attraverso le Cicladi e arriverà a Creta anche quest'anno ad agosto. Due anni fa siamo arrivati anche a Istanbul, quindi con l'idea proprio di connetterci anche con il mondo appunto di confine fra l'Europa e l'Asia, insomma. Petenò, grazie davvero. Allora, verotour.eu, metà viaggio, ma a settembre ci ritroveremo quando Arina ritornerà verso Venezia, così andiamo un po' a tirare insieme le somme di questa esperienza. Grazie, buon viaggio. Continuare, grazie. Grazie, grazie. Grazie a voi. Una manciata di minuti ancora, ma sufficiente intanto per invitarvi tutti martedì 19 luglio al grande appuntamento di EUFactor, la campagna lanciata dalla Commissione europea di cui siamo anche partner per avvicinare i ragazzi e le ragazze alle materie scientifiche. Saremo al Gifoni Film Festival, ci sarò io, con me ci sarà Marco Bianchi, il divulgatore scientifico, lo chef che racconterà proprio ai tanti giovani l'importanza della scienza per migliorare la propria vita. E poi ci sarà anche Alice Antonelli, vincitore del premio Odysseus dell'Unione Europea. Alice, che abbiamo conosciuto qualche settimana fa, le avevamo fatto in bocca al lupo per le finali di questo premio internazionale promosso dalla Commissione Europea insieme all'ESA, e Alice con la sua sonda ha vinto. Abbiamo il piacere quindi di averla a Gifoni, ma di averla anche qua per complimentarci con lei. Ciao Alice. Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie mille. Come stiamo ridendo sul Francesco, scusa, perché la gaffa dell'altra volta. Certo che abbiamo ripreso perché siamo tradizionalisti. E Alice, com'è andata allora? Hai portato a casa il primo posto, credo tanta emozione. Sì, tantissima emozione, una grandissima soddisfazione. È stata una bellissima esperienza che consiglio di fare a tutti. E ho passato 4 giorni dal 5 all'8 luglio in Belgio per la finale appunto del concorso Odysseus, e ho avuto l'occasione di stare all'Aerospace Center, un bellissimo posto con attività legate allo spazio. Sì. E ho presentato il mio progetto in inglese a una giuria di a 6 giudici preparati tra giudici appunto dell'ESA, a vari ingegneri. E sono stata valutata tra vari concorrenti e ho esposto appunto il mio progetto sul pallone sonda. E l'ultimo giorno c'è stata la cerimonia di premiazione, e ho scoperto di essere la vincitrice appunto, insomma, internazionale di questo concorso. Quindi una grande soddisfazione a 19 anni, sì. E poi sappiamo che insomma gli altri candidati erano anche più grandicelli. Odysseus, linetacontest.eu, veramente una manciata di secondi per dire che sei diventata anche ambasciatrice di questo contest ed è già aperto il bando per la prossima edizione, giusto? Esatto, sì. A settembre inizierà il nuovo concorso e invito tutti quanti, da bambini delle elementari dai 7 anni fino ai ragazzi più grandi, anche degli universitari fino ai 22 anni, di partecipare a questo concorso. E un in bocca al lupo quindi a tutti gli italiani, vi invito a utilizzare l'intelligenza, il cervello e la fantasia per proporre dei grandi progetti che potrebbero appunto anche vincere questo grande concorso. Facciamo nostro il tuo invito, l'appuntamento quindi a martedì 19 luglio al Giffoni Film Festival con Alice Antonelli, che ci presenterà il suo progetto, e lo scienziato e chef e divulgatore Marco Bianchi. Ciao Alice, a martedì, grazie. Ciao, grazie a tutti. E questo grazie va a tutta la squadra dell'Altra Europa, anche per loro sono state giornate intense nella preparazione della puntata. Un grazie quindi a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica, in assistenza invece Giovanni Melchiori. Radio24.it è il nostro sito da dove poter scaricare il podcast. L'Altra Europa @radio24.it invece, se volete scriverci via mail, @FedericoTadia per trovarmi su Twitter. Vi ricordo l'appuntamento per domani alle 9 invece con Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio, con me Telmo Pievani. La parola di domani che tenteremo di raccontare ai più piccoli sarà sport, quindi vi aspetto alle 9 qui su Radio 24. Ancora grazie, ancora buon sabato da Federico Taddia, ciao. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.